Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Parte il cross a cena, l'uscita, Mirante e poi la rete, Perisic! Dopo la sponda Ivan Perisic porta avanti l'Inter. Non esce Mirante, sponda di nuovo! D'Ambrosio, 2-0! L'ha visto Teglio, Zárate! La Fiorentina la sblocca con Mauro Zárate, 1-0. Palla sul secondo palo, il gol del Verona che pareggia 4 dalla fine. Incredibile, come al solito colpisce il Verona pisano. Adesso palla dentro che diventa buona per Dzeko, in area di rigore, Dzeko! 1 Dzeko per la Roma! Salah porta il pallone, lo dà al limite a Pjanic che va lui da Florenzi in area di rigore. Florenzi con la finta! E poi mette dentro il pallone del 2-0 con un super, super gol di squadra e di talento. Claudia Schiattino, autrice di questa puntata, Pietro Lacorte in regia, aspettando che il Napoli risponda alla Juventus questa sera ore 20:45 contro il Palermo. Il campionato dà qualche verdetto. Carlo Genta qui con me, ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Saluto subito Fabrizio Bocca, ciao Fabrizio. Ciao, ciao a tutti. Da Repubblica, primo verdetto, ottava vittoria consecutiva della Roma. Mi fate sentire Florenzi ai microfoni di Sky adesso. Da portare a casa questi tre punti che non è mai facile fuori casa. Abbiamo visto, come detto, tanti momenti di qualità, quel dai e vai con Milan e Pjanic che ti ha portato verso il secondo gol, è una fotografia della qualità collettiva della Roma? Ah, è una fotografia della qualità, come hai detto tu, della Roma, è una fotografia di quello che proviamo durante la settimana e quando i frutti danno il suo, quando il lavoro dà i suoi frutti è sempre bello, insomma, ripagare tutto quanto l'allenamento che fai durante la settimana. Questo Florenzi, Roma ottava vittoria consecutiva. Anche con un po' di sofferenza, a inizio ripresa contro l'Udinese, poi sabato sera Roma-Inter che varrà credo il verdetto sulla corsa al terzo posto, anche perché la Fiorentina tanto, si sta autoeliminando. Tanto attenzione perché al momento per effetto dello specchio deformante di anticipi e posticipi, il Napoli ha 6 punti dalla Juventus e la Roma gli ha appoggiato le mani sulla schiena perché appunto sale a 59 e a 2 punti dal Napoli, quindi il Napoli giocherà con parecchia pressione addosso, io credo, stasera a Palermo. Sì, come dice Sarri, Fabrizio, a guardare dietro viene paura. Ma sì, probabilmente sì. Io penso che stasera il Napoli insomma dovrebbe vincere. Ma sai, vedo che il Anche perché sennò chiudiamo tutto, Sì, cioè, baracca burattini. Esatto, insomma, non credo che succederà stasera, insomma, quindi io penso che stasera dovrebbe vincere. Il campionato si sta decidendo con delle lunghissime serie di vittorie, di risultati, no? È capitato alla Juve, è capitato anche al Napoli, alla Roma, adesso sta ricapitando insomma, un minimo all'Inter. Poi la differenza sarà in uno, due, tre passi falsi di questa squadra o quella. Adesso la Roma, chiaramente questo è il momento della Roma, tranne che in Champions League, insomma, ma questo è il momento in cui le va un po' tutto bene, insomma. Sì, sì. Sì, mette Zeko, non mette Zeko, insomma. Lì è bravo Spalletti. Mi ha sorpreso molto. Ieri l'aveva annunciato con quello che avete scritto, non potrà che fare bene, e certo. Ha avuto ragione. Merito dei giornalisti che hanno evidentemente per una volta rimotivato Zeko. Vabbè, insomma, oggi è riuscito a non sbagliare a porta vuota, sembra un progresso. Sì, rischia di passare alla storia questa primavera come la primavera dei grandi rimpianti. È un rimpianto, credo, la partita di ritorno con il Real Madrid, anche se Spalletti giustamente poi anche ha detto quella è andata, Giovanni. Anche quella andata, anche se giustamente poi Spalletti ha detto abbiamo perso 2 partite per 2-0 tutti a casa, credo resterà un rimpianto grandissimo questo campionato, perché io leggo la classifica e vedo che la Roma è a 8 punti dalla Juventus e ha giocato 2 mesi e mezzo senza allenatore. Sì. Sì, sì, indubbiamente è così. Guarda, io non credo mai. Gli allenatori che subentrano poche volte fanno poi questa differenza, diciamo così, basilare, diciamo così, eclatante. Questa volta è successo, effettivamente, se la Roma si fosse decisa a fare il cambio prima, probabilmente una ripartenza ci sarebbe stata, anche perché si vede che l'ambiente è completamente rimotivato, ormai Spalletti più che un allenatore mi sembra quasi più un guru. Ma il cambio doveva farlo la scorsa estate, Fabrizio, perché certo, Garcia era stato chiaramente esautorato dalla società e quindi si è andati avanti per troppi mesi senza guida. Sì, ma sai, non è mai facile poi cambiare l'allenatore, soprattutto quando sei in delle società che di allenatori ne hanno già cambiati tanti, e quindi posso anche capirlo che non fosse stato fatto subito. Pensavano di ripartire, non ci sono riusciti, poi anche perché gli avevano cambiato tutto lo staff tecnico. Appunto. L'allenatore era stato abbastanza Appunto. Demotivato. È per quello che ti dico che dovevano cambiarlo in estate, perché era fiducia condizionata, aveva perso insomma l'appeal con la proprietà, quindi era meglio prendere il coraggio a due mani e cambiare Garciano. Non so se la Roma adesso per questo sarebbe prima, ecco. Però credo sicuramente sarebbe in corsa, questo lo dice. Magari in corsa per lo scudetto. In corsa per lo scudetto, questo sì, che sarebbe comunque esatto, tanta roba. In corsa per lo scudetto, sì. C'è un dato impressionante. La Juventus ha comunque fatto qualcosa di straordinario lo stesso, ma sì, certo, girone quasi perfetto. C'è un dato impressionante, sì. Per quando la Juventus fa una partenza sbagliata così, certo, è più colpa delle altre che merito della Juventus. C'è un dato impressionante nella striscia della Roma, le 8 vittorie nelle 10 partite di Spalletti, 8 gol presi, eppure gioca con il 4-2-3-1, Totti a parte, giocano tutte le punte, le mezze punte, e anche questo credo sia una rivoluzione copernicana. 800-24-00-24, adesso c'è il traffico, chiedo un minuto di pazienza a Fabrizio Bocca, aspettiamo anche le voci di Spalletti e di Paolo Sosa, poi parliamo anche della Fiorentina che si sta dissolvendo piano piano, 2 punti nelle ultime 3 giornate, un po' squagliando, parliamo anche di questa scena che purtroppo è andata in onda a Udine, senza barriere, scavalche di cartelloni pubblicitari vanno in campo, sì, a fare le loro cose e squadra sotto la curva a farsi contestare. Io mi ricordo che avevano scritto una regola, Fabrizio, ti ricordi qualcosa del genere, che non si poteva più andare sotto le curve? La squadra sotto la curva è vietata per regolamento, è vietata. Adesso, ma viene praticata ugualmente, anche perché i giocatori si sottopongono a questa gogna. Quindi. Allora, ingenui noi che ci avevamo creduto, traffico. Di che stiamo a parlare? Di che parliamo? Mo dica lei, di che volevo parlare? Tutti convocati. Tutti convocati. 800-24-0024, le abbiamo riviste, quelle scene che ti dicevano venite qui. Tutti appecoronati. Tutti sotto appecoronati, la sì. Cosa pensi invece della Fiorentina, Fabrizio? Ma guarda, diciamo così, questi rendimenti altalenanti sono un po' nel DNA degli ultimi anni della Fiorentina, capitavano anche con Montella. Non so, credo che le pesanti eliminazioni prima dalla Coppa Italia, poi quegli schiaffi che ha preso in Europa League col Tottenham alla fine abbiano pesato un po', le abbiano tolto qualcosa. Peccato, insomma, col Napoli aveva fatto comunque una buona partita, quasi come shock dall'eliminazione del Tottenham. Invece con la Roma, insomma così, col Verona che non è riuscita a chiudere la partita, è ritornata un po'. È una squadra. Però Fabrizio, diciamo, se si può fare un appunto a una stagione che rimane comunque ampiamente positiva della Fiorentina di Paolo Sosa, è stato il fatto di, come dicono a Bologna, di darla su troppo presto in Europa League, perché la Fiorentina ha giocato in Europa League pensando al campionato, ha fatto turnover, cosa che ha fatto pure il Tottenham contro il Borussia Dortmund e ha preso 3 schiaffoni. Cioè, secondo me era giocabile quel doppio confronto e la Fiorentina doveva crederci in quella manifestazione. Sì, questo indubbiamente, però insomma, sai, se tu vieni eliminato dal Tottenham basta che non vieni eliminato in quella maniera così netta, ci può stare. Il problema è cedere il passo così in campionato, dopo che sei stata insomma a lungo prima, poi seconda, poi terza, adesso continui a perdere posizioni. Chi arriva terzo? Così ci proiettiamo anche verso Roma-Inter di sabato sera. Io dico Roma, guarda, al 70% Roma, 30% Napoli. Ah, quindi hai anche un pensiero di rimonta della Roma sul Napoli. Sì. Beh, ci sta. Vediamo come risponde il Napoli stasera. Se anche il Napoli si affloscia un po'. La Juve questo scudetto non se lo fa. Però il Napoli deve guardare avanti, Fabrizio. Il Napoli non deve commettere l'errore di guardarsi alle spalle, di guardare nello specchietto retrovisore. Ma la Roma, allora. Sì, ma la Roma fa la sua corsa. Ma la Roma guarda il Napoli. Non lo dico, non me ne frega assolutamente niente come risultato scorsese. In questo momento la Roma sta marciando forte. Insomma, il Napoli ogni tanto ha dei periodi un po' di in cui non tutto gli va bene, no? Però vediamo, insomma, io ho detto 70% arriva la Roma terza, un 30% di scalare. Quindi non dai chance allo scudetto del Napoli. E zero chance anche all'Inter, mi pare di capire, eh? Questo ci sta, ma sì, no, zero chance allo scudetto del Napoli. Sì, insomma, non ci credi. Poche. Invece io continuo a pensare che Napoli possa farcela. Grazie Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Grazie Fabrizio Bocca da Repubblica. Magari lo lanciamo. Io continuo a pensarci e voglio pensare che il Napoli possa stare lì, Giovanni. Sì, ma secondo me in realtà le possibilità ci sono, però la lanciamo questa cosa sul terzo posto. Chi arriva terzo? Napoli, Roma, Inter o Fiorentina? Il Milan lo possiamo togliere definitivamente, cancellare dalla lista. Saluto Franco Ordine, ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio. Vi faccio sentire una cosa del finale di partita di oggi di Chievo-Milan da Premium. C'è stato anche un colloquio tra Sakic e Mihajlovic, abbiamo raccolto anche uno sfogo dello stesso allenatore del Milan che dopo la partita ha detto tra sé e se con questa squadra è difficile fare di più. Questo è un po' lo sfogo amaro che abbiamo raccolto di Sinisa Mihajlovic. Questa è la cronaca di chi era negli spogliatoi del Bentegodi. Poi vi leggo invece lo sfogo di Cristian Abbiati, tutto tra virgolette: la squadra oggi ha avuto un atteggiamento inaccettabile all'inizio, non ho parole per la prima mezz'ora, dovevamo scendere in campo con molta più fame, e poi non parlo dei singoli ma sono stufo di vedere i compagni che rispondono all'allenatore perché vedono il richiamo solo come una rottura. Siamo, credo, ai titoli di coda della stagione, detto che poi c'è la finale di Coppa Italia. Franco, ciao. Ciao, eccomi qua. Si parla troppo al Milan, Franco? No, non si parla troppo. No? Io credo che obiettivamente sia le dichiarazioni, la frase rubata nel conciliabolo tra Mihajlovic e Sakic, sia la frase denuncia di Abate per quel primo tempo, sia quella successiva di Abbiati per i giocatori che prendono i richiami dell'allenatore, credo che si riferissero alla partita di oggi di Sakic come una rottura, credo che sia, come dire, oggi è un nuovo capitolo che si inaugura, perché fino a ieri ci avevano raccontato di un gruppo coeso che sta tutto dietro l'allenatore, qui obiettivamente viene fuori uno scenario completamente diverso, e cioè la vecchia guardia che mette in stato di accusa il resto della squadra. Sì, però è normale quando esautori l'allenatore, come è stato fatto in queste settimane. No, sappiamo perfettamente che Mihajlovic va via, e questo è il modo migliore per esautorarlo. No, ma esautorare l'allenatore, innanzitutto qui nessuno ha detto che l'allenatore ufficialmente che l'allenatore va via. Non è questo, adesso non scarichiamo le cose. Però l'anno scorso di questi tempi, Franco, neanche nessuno aveva detto che Inzaghi non sarebbe più stato l'allenatore del Milan. Sappiamo tutti che Mihajlovic ufficialmente, Sì, però obiettivamente l'anno scorso c'era tutto un altro scenario, e cioè l'anno scorso c'era lo scenario della società al completo che si rendeva conto che l'allenatore non era in grado di poter garantire una conduzione all'altezza del Milan. Qui invece, in questa circostanza, c'è invece per esempio Galliani che pensa che invece la gestione Mihajlovic meriti una riconferma. C'è ancora in ballo una finale, non è scritto sulla carta e da nessuna parte che ci sarà sicuramente il cambio, anche se io lo considero possibile al 95%. Detto che poi il fatto che il Milan sbagli approccio in una partita in cui Milan non ha quasi più speranze di giocare per il terzo posto, ma di fatto si butta via tra Sassuolo e Verona, tra Sassuolo e Chievo, qualche domanda anche sulla presa di Mihajlovic e sul suo modo di condurre deve farla venire, ma soprattutto, perché è la seconda o terza volta in stagione che vediamo questo film. Sì, ma soprattutto diciamoci ancora una verità. In questo momento obiettivamente stanno venendo meno alcune cose, e cioè al di là del gioco, della fattura del gioco che non è mai stata eccellente, abbiamo un paio di giocatori che hanno un calo di forma inevitabile perché giocano sempre, Bonaventura e Ondà, e poi obiettivamente l'incidente stradale toccato a Niang ha fatto scoprire l'inadeguatezza dei ricambi, perché ciascuno per proprio conto, Boateng, Luis Adriano e Balotelli, non sono in grado di farne uno in tre. Sì, mi fate sentire così, aspettando sempre Spalletti e Paolo Sosa, ne parliamo, quello che ha detto ieri Mihajlovic su Balotelli. Leggo il minutaggio di oggi degli attaccanti del Milan a Verona: Bacca 90 minuti, Menez 61, Luis Adriano 29, Balotelli 0. Del resto ieri... Scusami, Giovanni, ma la cosa più interessante è la frase che dice Galliani prima della partita. Sì, ce l'abbiamo. Allora, aspetta Franco, le sentiamo tutte e due. Prima Mihajlovic, ieri su Balotelli. Mihajlovic: Balotelli come condizione ci può anche stare, però diciamo dal punto di vista psicologico non è ancora pronto, deve migliorare, ma quello è stato sempre il suo problema. Noi siamo tutti qua che lo vogliamo aiutare, ma uno si deve aiutare prima da solo. E poi oggi Galliani prima della partita: Mario deve rincorrere gli avversari, deve fare le cose che fanno i grandi attaccanti, che lui in questo momento non sta facendo. Io concordo abbastanza con l'allenatore, io credo che sia un fatto psicologico, perché non è certamente né fisico né tecnico. Direi che con questo, Franco, fine della, anche dell'illusione. Sì, sì. Fine, no, è proprio come si dice in gergo, fine delle trasmissioni. Sì. Credo che a questo punto Balotelli, poi ti segnalo, non so se voi siete riusciti a vederlo, vi segnalo una scenetta durante l'intervallo, Boateng e Balotelli sdraiati sulla panchina come se stessero sul divano di casa durante il giorno di riposo, stravaccati come si dice in gergo, che continuavano a ridere mentre tutti gli altri componenti della panchina erano in campo a fare il riscaldamento, Menez compreso, che era uno sicuramente che non era tra quelli che potevano entrare. Questo ti fa capire che tipo di atteggiamento ha questo giocatore. E fa capire anche che al di là di tutte le suggestioni, a fine anno tornerà a Liverpool, transiterà da Liverpool e poi vedremo dove andrà a finire. Sentito Carragher in settimana, ecco, Balotelli e Aquilani, i peggiori acquisti della storia del Liverpool. Della storia del Liverpool. Magari su Aquilani è stato ingeneroso, su Balotelli non l'ho mai visto può darsi anche che ci abbia preso. Grazie Franco. Ciao Gigio. Ciao. Grazie Franco Ordine. Stiamo aspettando Paolo Sosa. Antonio da Salerno intanto, 800 24 0024. Antonio, buonasera, complimenti. Aspetta però, perché c'è Paolo Sosa, stai lì. Purtroppo sapevamo che era un momento delicato, dopo un bel po' di tempo e dopo una sconfitta contro la Roma, dove noi le aspettative erano alte anche da parte nostra, aspettavamo anche con le difficoltà che credevamo che comportava questa partita, che riuscissimo a esserci molto più vicino a quello che è la nostra qualità di gioco. Purtroppo questo non è successo e abbiamo pagato a perdere punti. Anche il momento non è stato ancora una volta con un pizzico di fortuna, perché alla fine, dopo, anche senza meritare troppo, ma alla fine ce l'hai la palla per vincere la partita, e quello non è successo. Dobbiamo lavorarci per ritornare noi stessi. Questo Paolo Sosa, i microfoni di Premium Sport. A dire la verità, la palla per vincere la partita l'ha avuta anche il Verona, dopo l'1-1 con Siligardi con Tonio ha avuto prima del pareggio un'occasione colossale. Riusciamo a fare Antonio da Salerno prima della pausa. Antonio, prego. Sì, volevo fare una domanda particolare. Parlo del commentatore televisivo, quello, diciamo, il calciatore, ex calciatore che odia il telecronista. Sì. Non sanno più cosa inventarsi per dirci qualcosa di interessante. Addirittura venerdì scorso Massimo Mara ha definito il gol di Dybala colpa del portiere. Non pensate che sia un poco spiacevole sentire delle cose, perché io penso che il gol di Dybala sia una perla assoluta. Cosa ne pensate? Io penso che sia una perla assoluta, però penso anche che si possa ragionare sul piazzamento del portiere del Sassuolo. Si può dire tutto senza per questo offendersi. Sì, è stato anche paragonato a un gol alla Messi. Sia un gol alla Messi, anche questa mi sembra una provocazione. Dybala è un fuoriclasse, Giovanni. Poi, che se il portiere della Sassuolo poteva fare meglio, se mi chiedi se poteva fare meglio, magari sì. Però dai, a me sembra questione di lana caprina. Appunto, come dici tu, non bisogna offendersi se qualcuno nota come la... fosse un paio di passi avanti. Come il portiere Sassuolo fosse un paio di passi avanti. 800-24-0024, ci fermiamo, torniamo subito. Ragazzi, ci sono, fra poco, tutti convocati weekend, 800-24-0024. Se becchiamo, fra poco, Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. I nostri calciatori hanno fatto una partita splendida, hanno avuto una reazione splendida, sono stati splendidi durante la gara questa volta, perché io so che contraccolpi può dare poi l'uscita da una competizione del genere a livello psicologico, invece loro hanno ricaricato subito le batterie, subito in allenamento mi hanno fatto vedere che avevano raccolto il messaggio del dispiacere subito per questa situazione qui, e che era successa, insomma, e oggi l'hanno fatto vedere. È chiaro che poi bisogna tenere a distanza quelle dietro assolutamente, e questo lo si fa soltanto facendo delle vittorie che di conseguenza possono mettere un po' di tensione a Napoli. Questo Spalletti ai microfoni di Premium. Ciao Pier. Come va? Ciao Pierino. Bene. Beh, si può anche pareggiare per tenere dietro quelli dietro, se quelli dietro pareggiano col Verona, che tra l'altro, stavo facendo una considerazione guardando la classifica, è una squadra che retrocederà ma molto democratica. Ha tolto 2 punti alla Fiorentina, ha tolto 2 punti alla Roma di Spalletti e ha tolto 2 punti all'Inter di Mancini nell'ultimo mese e mezzo. Quindi. No, ma è una squadra che retrocederà perché poi non è riuscita gli scontri diretti in casa che potevano in qualche modo, anche se ancora un calendario potenzialmente avrebbe ancora un calendario interessante, sì, perché ha per esempio Carpi e Frosinone in casa, il migliore di tutti per le prossime 4. Sì, però è durissima perché c'è stata appunto la sconfitta con la Samp, perché insomma delle 2-3 partite decisive dovevano arrivare 4-5 punti almeno e ne sono arrivati 0. Certo. E detto questo, insomma, mi sembra che adesso sabato ci togliamo quest'ultimo scrupolo sul terzo posto, nel senso che l'Inter ha bisogno di 2 risultati, di un risultato su 3, cioè sì, per vincere a Roma, e poi però mi sembra che il vento sia abbastanza chiaro, ma lo diciamo già da un mese, oggi lo dice anche la classifica, e semmai la vera domanda è che cosa sarebbe successo, ma mancherà per sempre la controprova se i dirigenti della Roma avessero deciso di fare quel cambio prima. Sì. Se con in mano si fa la storia, tanto se a Palermo mi fai la radiocronaca della tua giornata? Sono curioso. Sono atterrato, ho preso una macchina, sono andato a prendere un caffè a Terrafini, qualità straordinaria, e poi sono andato, c'è anche uno che mi ha offerto il caffè, lo ringrazio a questo punto, ovviamente ci ha tenuto molto, ha fatto il selfie e poi se oggi al terzo tentativo ho detto beh, grazie, e poi ho pranzato, classico pranzo da A reti unificate. Sì, grande amicizia, anche Rai. Cioè, quindi proprio veramente da Pax televisiva. E poi sono venuto in albergo, ho visto le partite, ho visto anche un po' d'Arsenal su un canale tedesco, qui Eurosport tedesco, credo che Wenger abbia dei problemi. e adesso fra poco vado allo stadio. Dove poi ci sarà questo Palermo-Napoli. Allora, 800-24-00-24. Adesso chiamiamo anche il compagno di lavoro di questa sera di Pierluigi Pardo, Ronaldo Orsi. Ricostruiamo la cabina di commento di Mediaset Premium. Sì, che sarà magari nella stanza a fianco in albergo. Però, No, perché io sono... Lui è senza albergo. Comunicazione di servizio 7:15 pronti in campo, questo glielo dico. Ma non c'è ancora, glielo dici dopo. Tu sei in panchina, no? Tu vai in panchina con Morellino, no? Sì, vero. Sai che Pardo è tattico? Chi fa la telecronaca stasera? Nando da solo. Io faccio il bordocampo. Gli ho chiesto questa piccola deroga. Bordocampo Palermo. Bordocampo Palermo dalla panchina, con l'iPad. Aspetta, che glielo diciamo. Nando, ciao. Ciao, Nando. Buongiorno. Buonasera. Questa sera sei convocato per fare la telecronaca tu, perché deve fare il tattico di Novellino. Non so se te l'ha detto, ma è stato ingaggiato proprio tramite questi microfoni. È stato ingaggiato da Novellino per fare il tattico del Palermo. E quindi... Però nel frattempo sono stato già esonerato da Zampaglini. Davvero? Sì, notiziona. È 7:15 in campo, Nando, è comunicazione di servizio, 7:15 in campo. Esatto. E invece volevo dire che questo pranzo, appunto, da Pax Televisiva, Mediaset, Sky e Rai, a un certo punto c'è stata una biforcazione, perché alcuni personaggi avevano freddo, poverini, avevano freddo, e quindi sono andati dentro a mangiare. E quindi siamo rimasti 5-6 o 3-4, che sono andati. Temperatura? No. Sì. Sui 20. No, temperatura dignitosa, meglio che altrove. Allora, 800-24-00-24, c'è qualcuno che sta aspettando. Così adesso coinvolgiamo anche Nando Orsi, Moreno, dalla provincia di Milano. Moreno. Sì, buonasera. Eccoci. Saluto tutti. Prego. Io volevo parlare 20 secondi di Arrigo Sacchi per le cose che ha detto in settimana. Sì, perché io sono un tifoso juventino, chiaramente. Io ricordo a tutti che Sacchi era quello che a un certo punto non voleva Van Basten di squadra, sì, e solo per questo, onestamente, non lo so. E poi, onestamente, lui mente allenando Fusignano, la Juventus è stata la prima squadra in Europa ad essere premiata dalla UEFA come squadra che ha vinto tutte le coppe. Terza cosa, quando poi lui torna a Milano con una squadra normale, prese 6 gol dalla Juve a San Siro. Sinceramente non credo che Sacchi abbia nulla contro la Juve. Per esempio, la Juve di Conte lui la apprezzava moltissimo e ha detto delle cose bellissime sempre della Juve di Conte. Quindi, veramente sgombro il campo da qualsiasi sospetto di antipatia nei confronti della Juve. Semmai il sospetto ci può essere più nei confronti di Allegri, anche se i rapporti si erano serenamente ricomposti dopo un paio di incidenti diplomatici televisivi. Io penso che poi le interviste bisognerebbe sempre un pochino viverle, no? Nel senso che certamente uno prende una dichiarazione, dice la Juve è come Rosenborg, è chiaro che una dichiarazione Lì carta canta su tutto il ragionamento, che non è solo Juve uguale Rosenborg, cioè, sì, ha fatto un ragionamento più articolato e più complesso. Sulla mancanza di spettacolo, Poi risulta anche che il giorno dopo abbia parzialmente rettificato, spiegato sulla Gazzetta dello Sport. Nando, io non so come la pensi tu sulla questione Juve Rosenborg. Come diceva Pierluigi, le interviste bisogna anche interpretarle o leggere, no? Dargli un senso, non soltanto soffermarsi su una frase. Quindi cioè l'esperienza e la grandezza di Sacchi non può essere messa in dubbio da certi giudizi che poi possono essere contestabili o meno, però alla fine vengono anche da una persona che ha fatto un po' la storia del calcio. Quindi io penso che delle volte bisogna anche leggere tra le righe quello che uno vuole dire. Cioè, io sono abbastanza convinto che in una conversazione, per esempio televisiva, non finalizzata, avrebbe detto qualcosa di diverso. No, magari diceva questa cosa qui, però magari la argomentava e argomentandola spiegava meglio. Secondo me l'aveva argomentata anche nell'intervista a Vittorio. Senti, Pardo, lo stuperone Pardo, secondo me la Juventus, ribadisco, è come Rosenborg, vince sempre lo scudetto ma in Norvegia. E quindi, la Champions stuperone, la Champions sì, è un'altra cosa. Cosa. È come le melanzane bicazzute di Fusignano. Sì, sì, quindi cosa vuol dire questo? Cioè solo per palati fini, vinse chi convinse. Le melanzane bicazzute convincono i palati fini, non solo in Italia ma anche in Norvegia. Sì, vabbè, più o meno questo pensava Arrigo, più o meno, sì, sì, più o meno questo. No, l'idea è che ci sia un po' di antipatia con Allegri c'è, anche se tu dici avevano ricomposto tutto. C'è il traffico, ci sono anche Marco dalla provincia di Siena, Maurizio da Firenze. Io nego assolutamente ci sia dell'antipatia, anzi se Allegri in questo momento è in ascolto, gli dico con estrema sincerità e col cuore in mano. Traffico. E noi dobbiamo pensare solo a quello, alla partita di domani. Questo è l'effetto di un calcio che a me personalmente non piace. Forse per me si gioca tutto alle ore 15 in contemporanea. So che sono anacronistico, però a me piaceva quel calcio lì. Tutti convocati. Tutti convocati. È chiaro, ci stiamo trovando di fronte, pur facendo una grandissima stagione, a un qualcosa di eccezionale. La nostra realtà di riferimento non può essere la Juventus, e se guardiamo le nostre realtà di riferimento stiamo facendo un campionato straordinario. E questo ci deve dare fiducia, il sogno non si azzera, il sogno deve rimanere. Non so, non so, se ti è capitato mai di dover fare una lunga corsa e da metà strada stanco dire a te stesso adesso basta. Eppure altri stan correndo ancora intorno a te. Allora non farti cadere le braccia, corri forte, va più forte che puoi. È inutile guardare le altre, tanto le altre non ci possono, non ci possiamo fluire. Se guardiamo davanti ci può dare solo ansia, perché non possiamo fare niente contro una squadra che sta vincendo ininterrottamente da 5 mesi. Se guardiamo dietro possiamo prendere paura. Non farti cadere le braccia. Ieri prima dell'allenamento gli ho detto: stasera chi guarda la Juventus è una testa di cazzo. Secondo voi qualcuno ha visto la partita della Juventus o no? Ma tutti l'hanno vista la partita della Juventus, ma è un errore quello che dice Sarri. Sarri, non, lo dicevo prima, non deve commettere lo sbaglio di guardare nello specchietto retrovisore, perché ha ancora la possibilità e deve coltivarla. Io credo che lo faccia nelle segrete stanze, no Pierluigi? Sì, sì, penso anch'io, è chiaro che lui ha una potenza di comunicazione, ha tutto l'interesse e ha anche buoni argomenti per poter dire che Napoli sta facendo un campionato eccezionale, come dice Piccinini, confrontato con quelle che hanno, per usare un'espressione abbastanza comune, lo stesso fatturato quasi. Però io penso che sia un dovere morale per chiunque dopo 7 mesi di campionato si trova potenzialmente a meno 3, adesso in questo momento a meno 6, ma già da stasera potrebbe essere un momento a meno 3, non pensare allo scudetto è da pazzi. Sì, ma quindi, Nando Orsi, questa cosa della pressione, pressione che viene anche per il fatto che ad esempio in questo periodo del campionato il Napoli gioca quasi sempre dopo la Juve, cioè, è una cosa vera o è anche un po' una favola? E domenica scorsa ha giocato, era arrivata pari alla Juventus. È contrario, era pari. Però sì, la però viene, dato un'occhiata nelle ultime settimane, complice l'incrocio Champions League, Europa League, di fatto ha quasi sempre giocato prima la Juve. Ma è meglio giocare prima o giocare dopo? Ma guarda, secondo me non c'è. Cioè, alla Juventus di queste cose proprio non gliene può interessare. E al Napoli? Ma al Napoli forse un po' di più, lo sai perché? Perché c'è una differenza sostanziale. C'è la storia della Juventus e del Napoli che è diversa a livello di pressioni e di vittorie. Quando sei abituato a vincere non c'è nessun problema. Quando sei lì e vedi che forse ti sta sfuggendo qualcosa, allora metti in ballo certe cose. In Inghilterra non c'hanno nessun problema, c'è una questione di cultura, il calcio si gioca, il Napoli deve andare in campo questa sera con la consapevolezza di essere più forte e vincere, e poi dopo se non vince non è perché la Juve ha giocato prima o perché ha la pressione. Certo, questo sì. Perché vi aggiungo un tema, nelle prossime 6 la Juve giocherà prima 4 volte su 6 e soprattutto giocherà prima le prossime 3. così, visto che magari diventerà anche tema, tema di discussione. Del derby, no? Vabbè, ma sì, io trovo che non cambi molto, sinceramente trovo che non cambi molto, penso che ma poi penso che l'abbia anche dimostrato, nel senso che il Napoli, cioè la Juve è stata perfetta nei 5 mesi, il Napoli è stato quasi perfetto, quindi non è che stiamo parlando di una squadra che ha avuto chissà quale braccino tennistico, sì, sì. No? Sì, ma è stato Sarri ieri a tirare fuori il tema dello spezzatino che non gli piace, ed è evidente che sotto c'era questo. Però posso dire una cosa, cioè, quando giocavo io e che giocavamo tutti quanti alle tre, il 30% dei giocatori stava bene tutta la vita, gli altri 70% no. Adesso che c'è lo spezzatino stanno tutti bene. Bravo Nando, bravo, bravi. Ma non sì, sono tanti giocatori, ma anche gli allenatori, stanno tutti bene per decenni e generazioni. Sì, quindi, sì, ma poi il calcio è questo, dai, ormai dai. È inutile star lì a dire... Io penso una cosa, in Inghilterra... Si gioca alle 2:30 della domenica pomeriggio. In Inghilterra minimo giocano tutte le squadre 55-60 partite all'anno, domenica, lunedì, con due coppe. In Italia al massimo possono giocare 38 più 6 di Champions, 44 più 3 di Coppa Italia, 47-48 partite. Beh, insomma, diciamo che ce la possiamo fare, vai. Sì. Ce la possiamo fare, no? E poi fra l'altro io invece, questo insomma, sapete, grande appassionato di spezzatino, perché penso che poi alla fine, se parliamo tanto di consumatore finale, di appassionato di calcio, no, spezzatino è una cosa meravigliosa. È fantastica. Voglio dire, cioè, in una giornata di campionato come questa, a me dispiace molto e in effetti bisognerebbe cercare di evitare delle cose controsenso sulle trasferte, perché delle volte veramente ai tifosi ospiti si complica la vita, quelli che vogliono andare in trasferta. Però in una giornata come questa un appassionato di calcio si è visto Juve Sassuolo, Empoli Samp, l'Inter ieri sera, il Milan all'ora di pranzo, il calcio internazionale, oggi pomeriggio diretta premium, stasera, e poi c'è sempre il telecomando, sì. C'è sempre il telecomando. No, volendo guardare, esatto. C'è un dato, cioè la domenica pomeriggio viene spesso svuotata di contenuti, eh. Oggi ha giocato la Fiorentina, ha giocato la Roma, però molto buona, spesso capita. Domenica c'è Toro Juve, credo. Sì, c'è Toro Juve. Ma posso dire una provocazione, ma chi se ne frega domenica pomeriggio, nel senso che pomeriggio è bellissimo, cronaca, è tradizionale, cronaca. Però voglio dire, cioè, anche il sabato sera che può essere fantastico, cioè il calcio è più forte di tutto, dai. Quando qualche tempo fa De Laurentiis fece la provocazione di un Roma-Napoli, si poteva giocare a mezzanotte, avrebbe avuto il 50% di share, perché il calcio è più forte di tutto, perché non è che se c'è la partita a scudetto e giocano sabato sera o giocano il venerdì sera ci cambia qualcosa, la vediamo, ma giustamente, perché ci piace. E oggi io credo che complessivamente, anche grazie alle televisioni che trasmettono tanto calcio internazionale, la cultura complessiva dei ragazzi che seguono il calcio sia una cultura calcistica nettamente superiore, la cultura degli allenatori anche penso sia superiore rispetto a 20 anni fa. Ci sono degli strumenti, abbiamo tutti più conoscenze, ma vediamo. No, poi noi dobbiamo considerare che nel mondo del calcio girano e gravi, sono cresciuti anche, cioè si sono inventati dei lavori nuovi proprio per queste cose qua, perché c'è tanta voglia di vederlo, no? E quindi è ovvio che si sono inventati dei lavori che alla fine fanno bene a tutti, quindi più calcio c'è e più la gente va a conoscenza di certe cose. Poi ripeto, il telecomando, tu al posto dell'uno metti il due e vedi un film. Certo. Io penso veramente che tanto ci possa raccontare di 20 anni fa o 30 anni fa, che magari giocavi le partite di coppa con dei giocatori e ti dicevano marca al 6, quello grosso biondo. Adesso si sa tutto di tutti. Vi devo fermare perché c'è il GR. Saluto Nando Orsi. Ciao Nando. Ragazzi, ciao. 7:15 al campo. Al campo. Io parto adesso. Ciao. Invece per Pier la convocazione è alle 6:05 qui dopo il GR. Perfetto. Va bene? Dopo. Così poi esco. Torniamo dopo il GR. Ciao. Io spero di non deludere lui e di dare qualcosa al pubblico di Palermo, fa capire che Novellino c'è. Tutti convocati. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Si ricomincia! Tutti convocati. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, in questo giorno di follia, ogni momento è tutto mio. Il mio rapporto con il presidente è sempre buono. Ieri ci siamo abbracciati, salutati, anche baciati. Cioè non c'è nessun tipo di problema. Toire è già venuto negli spogliatoi, che cosa vi siete detti negli spogliatoi? Siamo baciati. No, vabbè. No, non ci siamo visti ancora. Non ci siamo visti, quindi sarà contento, spero. Ma solo baci chiedo a te. Non si sono visti, ma si sono baciati. Chiedo scusa se intervengo, ma ho sentito una gravissima inesattezza. No. Io voglio smentire categoricamente, io non ho assolutamente baciato né in maniera positiva né in maniera coesa Sinisa. Era una battuta quella di Sinisa. Pier, ci sei? Sì, sì, Visto, dopo la settimana del turpiloquio, il sabato e la domenica dei baci. Quando viene che ti bacio? Vediamo, insomma, adesso vediamo. Sì, va a venire stretta di mano, va benissimo. Detto questo, sì, ma non credo che cambi la sostanza, nel senso che i problemi c'erano e ci sono adesso, non erano irrisolvibili prima e non sono irrisolvibili adesso. Secondo me è una decisione definitiva. Stai parlando di Milan, no? Certo, una decisione definitiva non è stata presa. Però certamente i problemi rimangono, quindi non sono i baci o le parole, diciamo, più al miele delle ultime ore che cambiano la sostanza. No. La mia sensazione è che comunque la decisione sia stata presa e in settimana abbiamo avuto spifferi, nettamente, quando comincia a girare il nome di Brocchi, quindi, certo, ma quindi cioè, cena Berlusconi Brocchi, certi tweet, la corsa di Mihajlovic a smentire tutto, i baci, gli abbracci, però la sensazione è che questo faccia male al Milan, cioè che oggi sono state le parole di Abbiati, quelle di Abate. Mi sembra che questo non favorisca, diciamo così, il finale di campionato del Milan. Anche Mihajlovic che dice parole rubate a Premium, con questa squadra non si può fare di più. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Berlusconi. Appunto, anche perché quest'anno è stata fatta una campagna acquisti importante, poi si può discutere sulla risultanza di certi investimenti, però i soldi sono stati spesi, si può dire, a differenza degli anni scorsi, non si può dire che quest'anno il Milan non ha fatto mercato. Certo. L'ha fatto in maniera significativa, quindi o i giocatori hanno reso meno, ma comunque Mihajlovic ha avallato queste decisioni, oppure se non le ha avallate, allora c'è un problema. Però Pier, rimangono gli acquisti, rimane un disegno di progetto, perché il Milan quantomeno è una squadra progettuale, poi vediamo la guiderà. Capisco la frustrazione dei tifosi del Milan, abituatissimi a grandi vittorie, e ovviamente gli ultimi anni sono stati abbastanza penosi da questo punto di vista, però se devo guardare in prospettiva mi sembra che il Milan abbia delle basi concrete, solide. Dalle quali ripartire. Poi certo, la strada da fare è tanta, anche perché ragazzi, la Juve ha preso un vantaggio che è difficilmente colmabile, perché non dimentichiamoci che quest'anno la Juve ha fatto un mercato oltretutto di prospettiva, cioè da un certo punto di vista le difficoltà iniziali sono dovute anche comunque al rimescolamento delle carte, al ringiovanimento della rosa. Oggi si trova dei giocatori, uno su tutti Dybala, ma non soltanto lui, che possono rappresentare il futuro per tanti anni, quindi se vende Pogba comunque lo vende per così tanti soldi che ne prenderà qualcun altro. E a proposito di Mihajlovic, questa squadra non può fare di più. Il di più è in questo momento sesto posto, abbiamo detto 11 punti dalla zona Champions, non lo so. Maurizio da Firenze, Maurizio, sì, eccoci. complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Ma c'è stata Maurizio, c'è stata contestazione oggi a Firenze? Un pochino sì. Ah, ecco, quindi avevamo capito bene. Io ho una semplice domanda da fare a voi giornalisti sportivi. Sì. Qui tutto bello, però non se ne esce. Ma una coppa in Italia, ma quando la riportiamo? Una Coppa dei Campioni, dici, una Champions? No, una, a me mi interessa una. Ma no. Sono anni che ci proviamo, che qui, che là, ma fuori che una squadra, una. La Roma prende 4 gol, è stata buttata fuori. La Juve ora se la... Beh, Maurizio, l'anno scorso il Napoli è arrivato in semifinale di Europa League, la Fiorentina pure. Quando la riportiamo? Ormai sono anni e anni. Ma è una sola, Credo prima di quanto tu pensi, almeno se allarghiamo il discorso anche all'Europa League. Tu dici? Io dico di sai, sì. io credo che, ma l'abbiamo parlato in settimana con Pierluigi, credo che comunque la meravigliosa corsa di Napoli e Fiorentina abbia condizionato anche le loro partite in Europa League, come è successo con il Tottenham, Pierluigi. Pier? Sì, sicuro, scusate, ma perché mi scordo le cose, ecco. Pronto? Eccoci. Ecco, scusate, adesso scenderò a piedi, no, me lo ricordavo il giubbotto, una piccola cosa abbastanza utile. Serve abbastanza, sì. Sì, comunque. Anche a Palermo serve. Classica partata, mi sto tutelendo di me. No, assolutamente, sicuramente ha condizionato, io credo in generale che... Ne parlavamo anche con Riccardo Travitani l'altro giorno, che c'è un eccesso di turnover assoluto, perché l'Europa League secondo me deve essere considerata come un obiettivo molto importante. Poi ci sono le eccezioni, lo sta facendo anche il Tottenham in Inghilterra, ma è chiaro che il Tottenham si trova di fronte all'opportunità storica, che è quella di provare a vincere il campionato dopo tantissimi anni. Gioca col Borussia Dortmund, ci può anche stare che faccia turnover, non mi piace, non mi fa impazzire, ma è un po' come il Napoli di Mazzarri qualche anno fa col Villarreal, sì, certo, nella settimana della sfida scudetto contro il Milan. Ma in circostanze normali l'Europa League deve essere trattata con molta più attenzione, e ti dico la verità, a me leggere oggi per esempio sul Corriere dello Sport, ma insomma il senso era quello delle parole di Pioli, che dice a questo punto la proprietà dell'Europa League mi fa piacere. Sì, anche perché resta poco del resto, anche perché resta poco del resto. In passato abbiamo assistito, ricordo la Samp che faceva turnover in Europa League, perché poi magari sarà domenica l'Inter, sì, e poi andava fuori col Metalist Kharkov. Mi devo fermare che c'è il traffico, poi ci sono Marcello da Udine, Marco da Siena, poi abbiamo un grande ospite, cerchiamo di tenere il tempo. Traffico, baci e abbracci, tutti convocati. Convocati. Dai, Marcello dalla provincia di Udine. Marcello. Ah, buonasera. Eccoci. Volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. Soprattutto da mia moglie, che è una vostra fan spiegata, che ti ascolta sempre dovunque. Beh, la salutiamo. La salutiamo. Prego, no, Marcello. Volevo solo fare così, no, dire una cosa sul discorso che prima avete parlato del cambio di allenatore della Roma. Che magari cambiando prima il discorso di Spalletti magari la Roma sarebbe in una posizione diversa di classifica, però volevo solo dire che siamo sempre nell'ipotesi del 6, perché se la Juve fosse partita in maniera normale, non dico forte, ma normale, non perdendo con l'Udinese, non pareggiando con Frosinone, che ne so, adesso non mi ricordo bene. Sì, ne ha lasciati tanti di punti delle prime 10. La Juve? Sì, però secondo me, Marcello, la Juve ha fatto una cosa talmente grande dopo che oggi, ad esempio, ha una proiezione che si avvicina ai 90 punti. Quindi la Juve sta già facendo un campionato eccezionale. La Roma ti resta il pensiero, il retropensiero, che forse muovendosi con qualche settimana d'anticipo. Siamo sempre con secco e mamma, meno male è andata così, Giovanni. Sì, dai, meno male che siamo vivi. Marco dalla provincia di Siena. Marco, grazie Marcello, intanto. Marco. E pronto? Sì. Grazie per la convocazione. Eccoci. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io vorrei intervenire in merito alle critiche che avete fatto sul gol di Dybala di ieri. E secondo me il gesto tecnico di Dybala è... Sì, ma non noi, l'ha fatto Massimo Mauro la critica, però prego Marco. Comunque in trasmissione prima voi avete detto che probabilmente il portiere era piazzato male, ma il portiere cosa poteva fare? Quello è un gesto da campioni che sinceramente non vedo come possa essere sminuito in no questo no modo. Ma non deve esserlo, cioè, perché... ripeto, è questione di lana caprina, è stato un gesto tecnico meraviglioso. Se poi vogliamo dire che il portiere del Sassuolo non era piazzato benissimo, magari lo prende lo stesso, insomma, stiamo parlando tu cosa, del nulla, cosa ne pensi, Pier? Non so chi l'abbia sminuito. No, ma Massimo Mauro ha detto il portiere del Sassuolo è però leggermente fuori posizione. Chiamate Massimo Mauro, che salutiamo. Sì, no, ma lo chiamiamo in settimana, ma visto che ci hanno chiesto questa cosa, ne stiamo parlando. Può anche stare, però dire, credo che stia nei 5 più belli del campionato, 10. Sì, siamo lisci. Solo perché il campionato è lungo, 38 giornate. Quindi assolutamente. Tra l'altro è un gol oltretutto pesante, perché è arrivato in una partita che non si stava sbloccando, in una situazione di equilibrio, quindi è un gol che oltre ad essere molto bello è molto importante. Mi ha ricordato il gol di Tevez contro il Genoa due anni fa. Non me lo ricordo. In una partita che non si sbloccava e... parlando veramente di capolavoro. Sì, aspetta, allora Pier, intanto cerchiamo di riagganciare la linea perché si sta deteriorando rapidamente. Saluto intanto Cesare Prandelli, ciao mister, buonasera. Ciao mister. Ciao, buonasera. Cosa si può dire del gol di Dybala di venerdì sera? Che si è aperto il dibattito, c'è anche chi ci dice sì, se il portiere del Sassuolo fosse stato due passi avanti gliel'avrebbe presa. Allora, se mio nonno aveva le ruote. No, straordinario, poi con una velocità di esecuzione pazzesca, in 30 centimetri ha calciato. Io penso che dovremmo vederne tanti di questi gesti tecnici. Poi se vai a analizzare le situazioni proprio da un punto di vista, diciamo, del portiere, uno può dire ma poteva essere 30 centimetri più avanti, poteva spingere di più, ma questi sono gol imparabili, secondo me. Cesare, dove lo piazzi Dybala? So che è un giochino abbastanza stucchevole, ma dove lo piazzi Dybala nella gerarchia del calcio attuale? Piazzo su un livello altissimo, altissimo, perché sta dimostrando con la personalità, con la tecnica, con la testa di essere un campione. Campione che tutte le domeniche ti fa vedere qualcosa di nuovo, tutte le domeniche è con la testa sul campo, mi sembra che abbia una motivazione straordinaria e poi è sempre sereno, allegro, non ha mai una reazione ai falli, ha una consapevolezza dei propri mezzi, ma soprattutto piace perché è puro, non so come dire, e lo colloco a altissimi livelli. Sì. Ma possiamo già parlare di fuori classe? Assolutamente sì. Pensa che Conte ha provato ad arruolarlo per la nazionale italiana, avrebbe risolto molti problemi, Pier, Cesare. non è male. Assolutamente sì. Ci sono dei meriti dell'allenatore, secondo te, mister, nella crescita di Dybala, al di là del fatto che la stragrande maggioranza ovviamente è la qualità del singolo e la qualità anche di personalità? Guarda, da un punto di vista tecnico l'allenatore fa poco, se non la ripetitività di certi gesti, la convinzione che se tutti i giorni sei lì per migliorarti ovviamente lo puoi fare. La bravura dell'allenatore probabilmente aver fatto capire a Dybala che in certe posizioni può rendere di più, magari trovare i tempi di gioco magari tra le linee, quando i centrocampisti ti passano la palla, trovare i tempi di gioco. L'allenatore secondo me può diventare importante, ma poi fase realizzativa, gesti tecnici, l'allenatore può far poco. E anche la testa, anzi si parte soprattutto dalla testa, diceva prima, non mi ricordo chi, Dybala dal primo giorno ci ha fatto capire che aveva una testa così. Mi viene in mente un paragone con un altro ragazzo dotato di grandissimi mezzi tecnici di cui abbiamo parlato ancora, cioè Balotelli. Ieri Mihajlovic, che tra l'altro è uno che lo conosce sin da quando era un bambino, l'ha praticamente stroncato, e lì è la testa che fa la differenza. Io non so se condividi quello che hanno detto ieri Mihajlovic, oggi Gagliani, il problema è tutto lì. Non ho seguito, ma se parliamo di testa, quando avete fatto l'esempio Dybala si è presentato e tutti i compagni hanno capito che era un campione già con la testa. La testa vuol dire che tutti i giorni devi essere lì, non staccare la spina tre giorni, poi ritornare e pensare di risolvere i problemi. Non ce la puoi fare, non puoi essere un campione. Quindi non voglio fare nessun tipo di paragone, perché in questi ultimi 7-8 anni ho parlato più di Balotelli che non di sì, di qualunque altra cosa. Esatto, e quindi mi è anche un po' difficile. Io ho sempre voluto bene e vorrò bene umanamente Balotelli, però ho risposto in questi anni in un modo, è lui che deve dare le risposte, non siamo noi a dare suggerimenti. Sì, sì. Cesare, Cesare, volevo chiederti, poi lascio a Pardo, andremo agli europei con l'allenatore del Chelsea? Questo è un problema? No, assolutamente no, l'allenatore è serio, la federazione è una struttura grande che può comunque preparare questa successione. Antonio Conte è una persona straordinariamente seria, professionista esemplare, quindi secondo me non ci saranno assolutamente problemi. Pier? No, io volevo capire che succede in Europa, nel senso che soprattutto l'Europa League mi sembra sia stata deludente, a parte la Lazio fin qui. E insomma, viene da pensare che alla fine abbiamo dei buoni allenatori, dei buoni tattici. Cosa ci manca? È un fatto di intensità? Ci alleniamo meno che all'estero? Non lo so, manca, secondo me ci manca un po' tutto, dobbiamo mettere assieme un po' tutto. Non so, a cominciare da far capire alla gente che va a vedere lo stadio che vorrebbe vedere una squadra che gioca in un certo modo, quindi cominciare a apprezzare il calcio nel vero senso della parola. Giustificazioni poche e lavorare tanto. Noi lavoriamo poco, parliamo tanto, noi è un calcio parlato, ininterrottamente parlato, quindi cerchiamo di giustificare qualsiasi cosa, qualsiasi situazione. Invece è il campo che deve sempre dare una risposta. Se le squadre nostre importanti nel nostro campionato, protagoniste con un calcio veramente fantastico come Napoli e Fiorentina, ed escono in Europa League, vuol dire che probabilmente non siamo ancora a quei livelli, non siamo ancora a quel calcio che comunque anche la fisicità va allenata, anche l'intensità va allenata. E noi purtroppo nel nostro calcio facciamo delle partite straordinarie, poi vai a vedere i dati e la settimana dopo hai un ritmo bassissimo. Quindi il ritmo bassissimo diventa un problema. Vuol dire forse che qualche ragione ce l'aveva anche Sacchi, adesso al di là del paragone con il Rosenborg, tra Juventus e Rosenborg. Sacchi è arrivato, è entrato nel calcio e ha cominciato a parlare di intensità. Lui dal martedì allenava perché la squadra deve pensare che martedì, mercoledì, come se fosse la partita, e gli davano tutti, ma cos'è questo, ma cosa sta dicendo? È la verità, cioè è un allenamento costante se vuoi andare ad alti livelli, altrimenti farai delle buone prestazioni però non avrai mai una continuità. Sì, però non dimentichiamoci, ragazzi, che l'anno scorso abbiamo fatto due semifinali e una finale con la Juventus, e che anche le squadre inglesi anche in questa stagione sono un flop totale, cioè, nonostante tutti i soldi che hanno. Ma non volevo far paragone con nessun'altra nazione, perché ogni nazione ha i propri problemi, perché se poi va a analizzare, come dici giustamente te, gli inglesi fanno fatica, eccetera. No, io sto guardando il calcio, la domanda era il calcio in Europa. Il calcio in Europa non lo fanno solo le grandi squadre, fanno anche i giocatori che arrivano con una mentalità particolare, e molti giocatori secondo me in Italia non so come dire, diventa più chiacchierato il calcio. Secondo me invece dovrebbe essere un po' ok, vado a vedere la partita, il pubblico cosa vuole? Intensità. Perché ci innamoriamo delle partite dove c'è un'azione a destra, una a sinistra, che in 90 minuti rimane con la bocca aperta, ritorni bambino e dici ma che cazzo di partito ho visto? Ne vediamo poche così, poi magari tanti cronisti enfatizzano anche qualsiasi situazione, va bene, la televisione ti può anche aiutare, ma quando vai allo stadio, tante volte si va, non hai questo tipo di percezione. Sì, vedi lo spettacolo nudo e crudo com'è, o il non spettacolo, come esatto, purtroppo spesso esatto accade. Purtroppo ci dobbiamo fermare qui, perché andrei avanti ancora per mezz'ora. Grazie a Cesare Prandelli. Grazie a Cesare Prandelli. Pier, mi dai un pronostico al volo sul Napoli? Ma io penso che Napoli vincerà stasera, ma non è un pronostico particolarmente originale. Sono molto curioso perché penso che la settimana di Palermo sia stata talmente paradossale che qualcosa se ne partorisce, o di positivo o di negativo. È chiaro che nel lungo periodo non puoi pensare a una squadra che sta senza allenatore o che ha tutte queste incognite. Però per esempio mi ricordo Verona, quando la squadra si compattò con Sorrentino allenatore ombra e fece una grande prestazione. Poi oggi c'è anche la forza del Napoli, penso che il Napoli vincerà. Penso molti gol stasera. Anche perché tra l'altro c'è un nuovo iscritto alla corsa salvezza che è il Carpi. Io vi do diamo un'occhiata alla classifica. Atalanta. Guarda, paradossalmente oggi il Carpi ha vinto, è una buona notizia in parte perché per quelle che stanno subito sopra, perché almeno il Frosinone non è salito. ma a leggerla bene in realtà è una pessima notizia. Ma non dirlo a me, che è da questo pomeriggio che dibatto con Carlo Genta su questa cosa, e io dico che il Carpi era meglio perderlo oggi per le altre, intendo, che tenerselo, ragazzi, dietro. Diciamoci la verità, non fare lo dito, no, per le altre, diciamoci la verità, però vogliamo, cioè, è chiaro, salvo i palermitani, però sarebbe un bene che il Napoli vincesse per tenere viva questa corsa. Domenica Verona Carpi, andiamo tutti a casa, domenica Verona Carpi. Non vi incartate adesso, sarebbe meglio. No, si è incartato lui, io ho detto una cosa diversa. Sarebbe meglio, dai, sarebbe meglio una vittoria del Napoli, quantomeno per il nostro godimento nella corsa scudetto. Anche perché dobbiamo andare avanti fino all'estate. Quindi, vabbè. Ciao Pier, buon lavoro, a domani. Ciao. A domani, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Tanto il Manchester United sta perdendo, c'è chi ci scrive: vogliamo parlare di Ranieri, ne parliamo domani, perché Ranieri gioca domani contro Benitez. E quindi... ma, tra l'altro, si poteva chiedere anche a Prandelli, una volta glielo chiederemo. È stata una, parlavamo dei problemi del calcio italiano, ma è stata una grande stagione per gli allenatori italiani, e sarà una grande stagione anche quella Ventura, perché ne avremo tre in Premier, compreso Conte. Insomma, sono andati Ranieri, vediamo come finisce l'anno. Insomma. Tanto il Tottenham sta vincendo 2-0 fuori casa con l'Aston Villa, sì, 12 minuti dalla fine. Avrebbe vinto anche senza fare quel turnover pazzesco che ha fatto in Europa League contro l'Aston Villa. Oggi, a proposito di grande Europa, il Paris Saint-Germain soffrendo. Ha vinto 9-0 a Troyes e ha vinto il campionato con 8 giornate d'anticipo. Campionato ridicolo quello, soffrendo. Ridicolo, totalmente ridicolo. Mi fate sentire il riassunto sonoro di questa settimana da pazzi che abbiamo vissuto. Matti, sono tutti matti. Urliamoci, insultiamo, da nevrosi siamo afflitti. Spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti. Colletti navidati dai trascorsi assai sospetti. Oh, il numero uno di tutti è stato lui, Maurizio Zamparini. La sua sbroccata contro Iachini. Ma io perché cazzo devo avere una squadra e devo star zitto? Questo è un deficiente che c'è, facendo giocare male la squadra. Perdere partite non accetta neanche che noi diciamo: cazzo, cerca di mettere la squadra meglio in campo, perché entra in campo con la mentalità perdente. Ma sul podio ci mettiamo anche Massimiliano Allegri, che dà del vecchio a Sacchi. Che stile. A parte che nessuno nasce imparato, scopiazzare bisogna anche sapere scopiazzare. Comunque io a Sacchi li voglio bene, perché è una persona di 70 anni e quindi... Li vuole bene. Poi Mancini, che se la prende con i giornalisti, strano, Vi rigidite sempre sui numeri, però... No, siete voi che vi rigidite sui numeri. No, ma li insegnano a Coverciano, cioè non è che li inventiamo noi. No, siete voi giornalisti che impazzite per questa cosa qua. Tu puoi avere 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, il campo tu lo occupi sempre bene. Bene o meno bene, poi dipende. E poi... appena sotto del podio c'è Mihajlovic, che se la prende anche lui con i giornalisti, dice che sono fissati, i giornalisti italiani sono dei fissati. Ma per fortuna che ho carattere così, che sto bene. Mi avete fatto più domande il rapporto tra me e Berlusconi che con aspetti tecnico-tattici del Milan. Questo secondo me non è sano anche, solo qua c'è questa fissazione. Secondo me a essere buoni gli hanno fatto un favore. Qualcuno sta notando, ad esempio, che quella frase rubata oggi a Mihajlovic, con questa squadra non si può fare di più, sia l'ennesima volta in cui Mihajlovic scarica sulla squadra, i giocatori, la rosa, un brutto risultato del Milan. Io non so cosa ne pensi tu. Intanto saluto anche Max Nerozzi. Ciao Max. Ciao, buonasera. Gli va bene a Mihajlovic se noi giornalisti siamo fissati e parliamo solo del rapporto con Berlusconi? Direi di sì. Direi di sì. Sì, ci sono cose peggiori. Tendenzialmente sì, anche perché a guardare la partita di oggi del Milan, se stiamo a parlare di aspetti tecnici, tattici, emotivi, fisici, motivazionali, forse è meglio fargli una sana domandina su Berlusconi. Sì, c'è poco da essere soddisfatti. La sintesi di un amico al 349-238-6666. Sentite cosa scrive. Querel tra Sacchi e Allegri, due punti. Se passa il Bayern ha ragione Sacchi, se passa la Juve ha ragione Allegri. Decisione salomonica, Max. deciderà il guru Guardiola. 800240024, se ne avete delle altre. Sì, Max, come arriva la Juve al Bayern? Mancano 3 giorni, però insomma oggi giornata di lavoro, Intanto mi interessa sapere di Chiellini. Ma guarda, Chiellini domani farà il test decisivo. Oggi sostanzialmente si è allenato ancora a parte. Ci sono delle possibilità, ma sbilanciarsi oggi un po' è un po' azzardato, però ci sono delle chance che lui possa partire da Venezia. Ma senza di lui 3 o 4 in difesa? Secondo me senza Chiellini giocherà a 4. A 4 sicuramente, secondo me sì. Quindi, malgrado tutto, Rugani continua a non convincere. La stessa squadra più o meno che si è vista in campionato? Sì, più o meno. No, Rugani sta iniziando a convincere, perché Allegri l'ha messo alla prova l'altra sera, tra altre cose dicendogli solo 3 ore prima che avrebbe giocato, perché la sera prima invece non doveva giocare. E sta facendo dei passi avanti Rugani, soprattutto nell'approccio juventino alle partite, diciamo. Anche se però non viene ancora considerato all'altezza di una partita come quella di Monaco. Beh, insomma, dai, non è una partita normale, neanche per la Juve quella. Forse affronti quella che è la favorita della Champions, a Barcellona, vedremo, insomma. Però per adesso mi dice come ci arriva. Diciamo che non è male questo Rosenborg, insomma, chiamiamolo no, così. No, Rosenborg non è malaccio. No, 18 vinte nelle ultime 19, se sì. Giochiamo a numeri, Bayern ne ha vinte 14, pareggiate 3, perse 2, quindi insomma, diciamo che la Juve c'è a benino. Sì, Rosenborg non è malaccio. Poi mi è piaciuto molto il fatto che comunque Allegri abbia liquidato l'idea di turnover. Ma quale turnover? Giocano i titolari in campionato e in Coppa e festa finita. Sì, bisogna vedere, sai cosa, chi è il titolare tra Alexandre ed Evra. Evra ha grande convinzione, ha dato grande mentalità, 5 finali di Champions, però questo Alexandre ha una forza fisica pazzesca e il Bayern, si è visto in questi anni, è vulnerabile se lo attacchi. Evra aveva davanti Robben all'andata, tutti sarebbero andati in crisi con Robben, però non aveva neanche le gambe per ripartire. Non vorrei che Alessandro fosse il primo rimpianto della Juve. Beh, può essere anche un giocatore tattico, eh? No, assolutamente, lui è Cuadrado e Morata, ci aggiungo, possono essere anche i giocatori che cambiano la partita. Appunto. Magari su 0-0, insomma. Anche se è difficile, perché su 38 partite di quest'anno mi sembra che il Bayern abbia chiuso con 0 gol, segnati solo 4, quindi insomma è un evento abbastanza strano tenere il Bayern a 0. Sì, quindi la Juve si deve preparare psicologicamente all'idea di doverne fare 2 per pensare di passare il turno. Penso di sì. C'è un amico che scrive: se finisce male, al di là della querela con Sacchi, se per caso può saltare il rinnovo di Allegri. Ma scherzi, ma dai. No, non siamo alla sciaradoppia. Può saltare il rinnovo di Allegri se Allegri decide di andare a allenare un'altra squadra, magari, che so, Real Madrid. Allegri è un top coach a livello europeo, non scherziamo neanche. Me lo fate sentire Allegri venerdì a proposito del Bayern, come si batte? Come si batte il Bayern? Il Bayern è dura da battere, perché nonostante che le ultime partite abbia vinto poco, però ha sempre dominato l'avversario nella gestione della palla, questa è la sua forza, e quindi bisogna avere la capacità di essere bravi in quei momenti lì a fare un'ottima difesa e soprattutto a far male dove loro hanno i punti deboli. Max, secondo te, visto che venerdì sera quelli del Napoli non potevano guardare la partita della Juve, questa sera a Vinove e dintorni cosa fanno di Palermo-Napoli? No, la guardano, ma potrebbero anche non farlo, perché sono già assolutamente mentalizzati sulla Coppa, sulla Champions. Non è modo di dire, ma è una partita veramente alienante, diciamo. Cioè, tutto quel che c'è attorno non esiste. Già hanno fatto fatica, secondo me sono stati bravi a stare concentrati con il Sassuolo, però qui è veramente una partita notevole, insomma, diciamo. Il derby 4 giorni dopo è una trappola. Oggi abbiamo visto il Toro, tra l'altro c'è qualcuno che ci dice: sono curioso di sentire il vostro commento sul Torino, l'ennesima schifezza di Ventura e della squadra, voi che li difendete sempre. Il Torino può essere una trappola 4 giorni dopo il Bayern? Io credo di sì, potrebbe essere una partita emotivamente difficile, anche per il momento in cui cade. È chiaro che il Torino è in un brutto momento, oggi era sopra i 2 gol, si è fatto rimontare, cioè una inspiegabile cattiva aria comunque intorno a questa squadra, perché secondo me abbastanza senza motivazioni. Max. Guarda, due cose. Uno, penso che a casa Toro invece farà un po' di turnover Allegri, perché si è spremuto un po' fra Sassuolo e Monaco. E poi, come diceva adesso Carlo, stranamente avrà quasi più pressione addosso il Toro che la Juve. Toro gioca davanti ai suoi tifosi, che non gli hanno mai perdonato l'umiliazione del derby, mai quello di Coppa Italia, mai, mai. Sì. E quindi veramente il Toro, non dico che deve vincere, ma sicuramente deve fare una partita da Toro, perché tra il derby di campionato deciso da Cuadrado, che fu poi la scintilla per la striscia della Juve, e quello di Coppa Italia, veramente il Toro non può giocare una partita normale. Sì, partita però pericolosa, partita pericolosa. Io credo la chiave della volata finale dello scudetto della Juve, perché poi più o meno il calendario da lì in poi si equivale tra Juve e Napoli. Se la Juve riesce a passare oltre vincendo anche rispetto all'ostacolo del Torino. Grazie Max. Ciao Max. A voi, ciao, buona serata, ciao. Ciao. Grazie Max Nerozzi. Poi c'è Carlo, no? C'è da capire cosa cercheranno di fare gli attaccanti del Toro nei primi 180 secondi per togliere sì, Buffon il record dei record di imbattibilità. Ma sì, insomma, Buffon, ma sì, come fai a segnare con quella gente lì? Oggi Immobile ne ha fatti due, Zoff, sì, quindi chi c'era? Tu per segnare ti affidi a gente appunto come Immobile, sì. Il nome è tutto un programma. Sì. Poi c'è Maxi Lupez, ha lupato sempre come una scimmia. Ma lei in questi giorni ha fatto tutte le interviste per dire che Buffon è forse il migliore di tutti. Sono tutte cazzate. A me Buffon sta sinceramente sulle palle. Anzi, domani vado da Ventura. Da Ventura, sì, a fare cosa? Ovviamente il ma Toro. Sì, sì, segnare nei primi 4 minuti di gioco non deve battere il mio record. Sì. No, ma non è il suo. Record di Sebastiano Rossi, lei è già stato battuto. Sebastiano Rossi? Sebastiano Rossi, sì. Ma lei è sicuro? Assolutamente. Porca è già vacca. Battuto, sì. Allora Buffon mi sta doppiamente. traffico. Quindi noi mercoledì andiamo laggiù, non è che se mercoledì vinciamo poi dopo siamo a Milano. Tutti convocati. Tutti convocati. Pali. Allora, c'è 58. È finita 9 mete a 2 per l'Irlanda in una partita che è iniziata male. Finisce qua 58 a 15. Finisce così, 58 a 15 Irlanda, 9 mete subite, avevamo fatto peggio solo in Inghilterra nel 2001, 10 mete subite. Questo è il riassunto del sabato pomeriggio dell'Italia del rugby a Dublino. Ciao Giacomo Bagnasco. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Finisce con un senso generalizzato di inadeguatezza, sì, che non va via. E stavolta possiamo a tutti gli effetti parlare di figuraccia, Giacomo. Sì, sì, è stata una brutta figura contro una squadra che oltretutto aveva i suoi problemi e nelle prime tre partite aveva pareggiato una volta e due ne aveva perse. Dopodiché è chiaro che erano i campioni uscenti, tra loro e noi c'è sempre una differenza sostanziale, però si è perso male e la prima immagine che a me viene in mente è quella della prima meta subita, perché è nata da un errore, possiamo anche dirlo, di Sarto, ma forse poteva essere anche di chiunque altro, che francamente a questi livelli non capita proprio mai di vedere, e da lì probabilmente c'è stato anche un po' un avvilimento e da lì è partita una disfatta che non ha attenuanti. Comunque, pur non essendoci attenuanti, diciamo che poi ci si sono messi anche gli infortuni in serie, abbiamo fuori solo per questa partita di sicuro Cittadini, Padovani e Biagi, mentre Fuster, Garcia e Campagnaro potrebbero comunque non essere della compagnia. E dette tutte queste cose tristi, vi dico invece che, e questa è di pochi minuti fa, l'Inghilterra ha vinto il Sei Nazioni. Beati loro. La Francia ha perso in Scozia 29-18, gli inglesi vincono il Sei Nazioni che non vincevano da 5 anni, vincono la triplice corona, quelle cose che loro così attaccati alle tradizioni amano tanto, perché hanno battuto anche le tre Home Unions, le altre Home Unions, l'Irlanda, il Galles e la Scozia, ed era una cosa che non riusciva loro addirittura dal 2003. tutto, probabilmente non è un caso, con il primo allenatore non inglese della loro storia, l'australiano Eddie Jones. Sì, noi intanto non vediamo l'ora, almeno quest'anno, di chiudere la stagione. Sei nazioni, andremo in Galles all'ultima giornata il 19 di marzo, però tra infortuni e brutte partite io non ricordo un'edizione così scoraggiante del Sei Nazioni. Siamo in piena fase di rinnovamento, c'è un nuovo allenatore che sta per entrare, eccetera, eccetera, eccetera, però l'idea e la sensazione è quella di vederlo finire presto, insomma. Sì, guarda, secondo me ci sono due fattori oltretutto. Il fatto che paradossalmente la prima partita fosse stata niente male, addirittura hai rischiato di battere la Francia, quindi quando c'è l'illusione poi la delusione è ancora più forte, più cocente. La seconda è quella di questo allenatore, Jacques Brunel, che tutti sapevano se ne sarebbe andato dopo le Sei Nazioni, ma poiché un ciclo era finito con il Mondiale 2015, qui si è trattato di prolungare una situazione da cui non si potevano trarre grandi frutti. È anche vero che non si sarebbe potuto liberare subito il nuovo CT, che è attualmente il Director of Rugby degli Harlequins nella Premiership inglese, ed è, neanche a farlo apposta, un irlandese, Conor O'Shea, che ieri era presente allo stadio, era alla Viva Stadium di Dublino, e quindi ha capito che non sarà un quadriennio semplice da gestire. Sì, diciamo, lui avrà molto da lavorare. La cosa più importante, secondo me, è che lui possa fare il Director of Rugby anche nell'Italia, nel senso che, facendo le dovute distinzioni tra un club e la nazionale, però abbia un potere decisionale fortissimo. E io direi che a questo punto è doveroso provare anche questa carta, perché lo si è detto altre volte ma non è mai successo fino in fondo. Quindi se ci fidiamo in pieno e poi, poi vedremo. Però senza alibi per nessuno. O altrimenti gli altri ragioneranno se tenerci ancora nel club del Sei Nazioni. Grazie Giacomo. Ciao Giacomo. Grazie alla a prossima. Voi. Grazie Giacomo Bagnasco. Abbiamo un attimo di tempo per fare Fabio dalla provincia di Ascoli. Fabio. Sì, ciao, buonasera e complimenti per la trasmissione. Dici. No, io volevo dire, da italiano mi dispiace, ma penso che la Juventus non possa passare mercoledì. Non credo. Però lo scontro diretto di domenica col Torino, io penso che tutto dipende da mercoledì. Perché io penso che se la Juve va avanti, il Torino ha una chance. Ma se la Juve va fuori in coppa, il Torino per me non c'ha nessuna chance. Sì. Questo pensavo. Può essere anche, però fisicamente e psicologicamente non sarà semplice. Questo è evidente. Il derby di Torino è storicamente molto difficile per la Juve. Questo è sicuro, sembra un derby, però secondo me io la vedo così, poi dopo sicuro che mi sbaglio. Grazie. Vivendo lo scopriremo. Abbiamo finito. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Pietro Laccorte, Roberta Frisani in regia. Domani torniamo dopo il GR delle 14 con un grande ospite che viene qui a trovarci. Uh-huh. Domani noi ritorniamo invece domenica, come al solito alle 17, sapremo anche cosa avrà fatto la Juve col Toro, anche con il Bayern. Saluto anche ad Andro Mercu. Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli, dalla veneranda casa madre di Radio 24. Insieme ai discepoli Gente Capuano sottoporremo al nostro esame astrale l'Italia del rugby, elargendo una risposta al quesito: cosa farà l'Italia? Cosa farà l'Italia? Perderà. Che sorpresa. Ci arrivavo anch'io. Alla prossima. Ciao a tutti. Perciò sai che vi dico? Passate una bella serata. Lupi lupi sono finiti, forse i tempi cupi. Ciao!